Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Innanzitutto serviranno degli arredi nuovi, banchi singoli, banchi moderni, che permetteranno però anche una didattica moderna. Ovviamente serviranno spazi nuovi, nuove aule, serviranno per fare passi territoriali, quindi per portare i nostri studenti e le nostre studentesse anche fuori dalla scuola intesa in maniera tradizionale. E poi ovviamente l'organico, perché se quel metro di distanza c'è in tutti gli ordini di istruzione, ma non c'è nella scuola dell'infanzia per ovvie ragioni, il comitato tecnico scientifico del Ministero della Salute mette per iscritto che bisogna fare lezione a piccoli gruppi. Significa che io ho bisogno di più maestre e di più maestri. Quindi risorse per la ripartenza della scuola, care ascoltatrici, cari ascoltatori, avete sentito la ministra dell'istruzione Azzolina oggi qui a Radio 24, 24 Mattino, parlare appunto dell'organizzazione che si sta approntando per riaprire la scuola il 14 settembre e poi dei fondi stanziati che sono 2 miliardi dovrebbero essere a questo punto. E poi c'è un'altra ministra oggi che ha fatto una dichiarazione, la ministra Bonetti della Famiglia per le Pari Opportunità, a proposito dell'estensione del bonus babysitter anche ai nonni. I nonni che tengono i bambini, permettendo quindi ai genitori di andare a lavorare, possono usufruire di questo bonus che arriva fino a 1.200 euro. Però la ministra Bonetti è piuttosto perplessa, perché diceva come finora abbiamo cercato di salvaguardare i nonni, perché anche se i bambini non si ammalano gravemente passano il contagio, e sarà ospite qui a Effetto Notte anche per parlare di altre cose. Poi, a proposito sempre di coronavirus, il presidente del Veneto Zaia chiede il tampone obbligatorio per le badanti extracomunitarie, mentre Fontana, presidente della Lombardia, proroga l'obbligo della mascherina all'aperto in Lombardia fino al 15 luglio. Per commentare tutte queste notizie sempre legate al coronavirus, anche ai dati italiani che tra poco vi illustrerò, e al primo vaccino cinese che sta per essere applicato ai militari cinesi, sentiremo il professor Lopalco dell'Università di Pisa. Insomma, tantissime cose, anche per iniziare già questa settimana, vedete, una puntata carica, quindi non pongo altro in mezzo, vi dico soltanto che tra pochissimo c'è la sintesi della giornata, poi gli approfondimenti con gli ospiti. Per i vostri commenti, ve lo ricordo, c'è come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp, meglio WhatsApp, al 349-238-6666 e poi il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure Roby con la Y linetta bassa Giordano. I dati sul coronavirus in Italia sono 126 nuovi casi, 6 morti, il dato più basso da febbraio. In Lombardia obbligo di mascherine all'aperto fino al 14 luglio, dal 10 via libera invece al calcetto, mentre in Veneto Zaia chiede tamponi obbligatori per le badanti extracomunitarie. Il monito dell'OMS, la pandemia è ancora lontana dalla fine, il peggio deve ancora venire. In Cina intanto il primo vaccino è dei militari, ne parleremo col professor Lopalco dell'Università di Pisa. Il bonus babysitter esteso ai nonni, la ministra Bonetti perplessa, i nonni dice la loro salute è la nostra priorità, sarà ospite qui Effetto Notte. Politica italiana, tensioni, PD, Movimento 5 Stelle sul MES. La ministra Azzolina, Radio 24, per la riapertura delle scuole a settembre a disposizione 2 miliardi e mezzo. Il ponte di Genova, il sindaco Bucci dice che sarà finito il 29 luglio, ma chiede ancora chi farà il collaudo. Shock in Germania, scoperta una rete di pedofili, 30.000 i sospettati nei forum sul web, scambio di informazioni e consigli. Stati Uniti, la Corte Suprema dà il via libera a Trump sulla pena di morte. Sport, calcio, tra scudetto e mercato, i colpi di Juventus e Inter, il brasiliano Arthur in bianco e nero, in nero azzurro il marocchino Hakimi. Partiamo quindi come sempre dai dati aggiornati dal Ministero della Salute sui contagi da coronavirus in Italia. Dati anche oggi incoraggianti, ma in Lombardia resta l'obbligo di mascherine fino al 14 luglio. Sono 6 le vittime di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, il dato più basso da febbraio. Dei 126 nuovi positivi, 78 sono in Lombardia, che ha registrato un solo deceduto. Dati incoraggianti, ma non tali da consentire in regione l'abbandono della mascherina, il cui obbligo, anche all'aperto, rimarrà fino al 14 luglio in via precauzionale, ha spiegato il governatore Attilio Fontana. Continueremo ancora per 15 giorni, ho parlato a lungo con tanti esperti e penso che per una questione di precauzione valga la pena, visto che i numeri stanno andando bene, è giusto proseguire in questa direzione. Sempre fino al 14 luglio, in Lombardia, sui luoghi di lavoro, dovrà essere misurata la temperatura, stando all'ordinanza firmata dal presidente Fontana, che permetterà, dal 10 di luglio, l'apertura di discoteche e sale da ballo e la ripresa degli sport da contatto, come il calcetto. Intanto, il presidente della Regione Veneto ha disposto test obbligatori e gratuiti per le badanti che rientreranno in regione dai paesi extra UE per riprendere il loro lavoro in famiglia. Per usufruire del servizio, ha specificato Luca Zaia, bisognerà rivolgersi al Sistema Sanitario Nazionale a partire dai medici di base. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è attesa domani la decisione di Bruxelles sulla riapertura delle frontiere esterne, mentre il coronavirus continua a fare preoccupare nel mondo. È attesa ora la decisione di Bruxelles sulla riapertura delle frontiere esterne dell'Unione Europea. E a ore in Germania finirà il lockdown imposto una settimana fa nel distretto tedesco di Warendorf, nel Nord Reno-Vestfalia, mentre sarà prolungato di 7 giorni quello previsto per Gütersloh, dove si è registrato il grande focolaio di coronavirus nel mattatoio di tennis. In Gran Bretagna preoccupa il focolaio a Leicester, dove potrebbe essere varato un lockdown locale prolungato di 2 settimane rispetto alle riaperture previste dal 4 luglio in tutto il Regno Unito. E in Brasile il governo della capitale Brasilia ha decretato lo stato di calamità pubblica di fronte all'aggravarsi della pandemia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E poi avete sentito il monito piuttosto angosciante, preoccupante dell'OMS: la pandemia non è ancora finita, il peggio deve ancora venire. Cercheremo di capire qual è l'interpretazione con il professor Lopalco dell'Università di Pisa, al quale chiederemo anche di questa notizia che arriva dalla Cina, che entra in una nuova fase, uno dei vaccini più promettenti per combattere il coronavirus. L'esercito cinese inizierà la sperimentazione sui soldati. Ritorniamo invece sulle questioni italiane col dibattito politico che verte ancora sull'utilizzo dei fondi del MES. Il meccanismo europeo di stabilità divide PD e 5 Stelle. I due partiti di maggioranza sono su fronti opposti. Ad agitare le acque ci sono i 37 miliardi di prestiti a tassi agevolati che l'Italia potrebbe chiedere a Bruxelles e destinare esclusivamente alle spese sanitarie post-Covid. Basta tergiversare, dice il segretario PD Nicola Zingaretti. Il MES ora è uno strumento diverso dal passato. Quei soldi sono utili alla sanità, ma l'idea continua a non piacere al Movimento 5 Stelle. Restiamo contrari al MES, ribadisce il capo politico Vito Crimi. Se debito deve essere, allora meglio che avvenga attraverso lo scostamento di bilancio che utilizzando uno strumento che riteniamo non solo inidoneo ma pericoloso. Il governo intanto è al lavoro sul decreto semplificazioni. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte punta a portare il provvedimento giovedì in Consiglio dei Ministri. La bozza del decreto prevede che per velocizzare gli appalti ci sia un anno di regime straordinario, senza gare ma con affidamenti e trattativa diretti. Procedure speciali anche per progetti green e digitalizzazione. Novità in vista poi per il danno erariale e l'abuso di ufficio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Il presidente del Consiglio Conte annuncia la nomina di Francesco Caio presidente e Fabio Lazzarini amministratore delegato della New Company, della Newco all'Italia. Il vertice, dice Conte, potrà da subito lavorare al nuovo piano industriale da notificare alla Commissione europea. Parliamo di scuola, 2 miliardi e mezzo per ripartire il 14 settembre, previsto nel decreto rilancio. Il resto arriva dal programma operativo nazionale del Ministero dell'Istruzione, soldi che c'erano e non erano stati spesi, così ha detto la ministra dell'Istruzione oggi, Lucia Azzolina, intervenuta a 24 mattino. Come sarà speso il miliardo in più? Ci tengo a dire che per settembre noi abbiamo quindi 2 miliardi e mezzo. Innanzitutto serviranno degli arredi nuovi. Banchi singoli permettono di recuperare spazio se dobbiamo mantenere il metro di distanza da bocca a bocca in classe, e non solo in classe chiaramente. Ovviamente serviranno spazi nuovi, nuove aule, serviranno per fare passi territoriali, quindi per portare i nostri studenti e le nostre studentesse anche fuori dalla scuola intesa in maniera tradizionale. E poi ovviamente l'organico, c'è bisogno di più maestre e di più maestri, quindi sicuramente parte di questi soldi saranno spesi per l'organico. Mentre la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti è intervenuta sull'estensione del bonus babysitter ai nonni e dice: ho preso atto della circolare con cui l'INPS ha esteso questo bonus babysitter anche ai familiari per la cura dei bambini. Resta il fatto che anche in questa fase i nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela e proteggere la loro salute era e resta una nostra priorità. La ministra Bonetti sarà ospite tra poco qui effetto notte. Stati Uniti, la Corte Suprema ha dato il via libera all'amministrazione Trump per ripristinare la pena di morte a livello federale. Le esecuzioni potrebbero riprendere per la prima volta dal 2003, anno in cui furono di fatto congelate durante l'amministrazione Bush. Germania, oltre 30.000 sospettati nell'inchiesta sulla rete di pedofili partita dalla città di Bergisch Gladbach in Germania. Gli inquirenti hanno rivelato come molti di questi soggetti si scambino informazioni in alcuni forum sul web, dandosi anche consigli su come rendere accomodanti i bambini. La Giunta regionale toscana, torniamo in Italia, ha approvato oggi la delibera che consentirà presto l'utilizzo della pillola RU486 per l'aborto farmacologico anche in ambulatori specializzati. Fummo i primi a partire acquistando la RU486 all'estero, ritenendola più sicura dell'aborto chirurgico, l'ha spiegato il presidente della regione Enrico Rossi. Poi nel 2014 il Consiglio Sanitario regionale adottò un parere dichiarando non necessario il ricovero ospedaliero ed ecco l'evoluzione che era tanto attesa, ha detto: inutile far soffrire inutilmente le donne. Il disastro delle autostrade liguri. Il sindaco di Rapallo chiede i danni ad Autostrade per l'Italia. I danni procurati dal piano manutenzione di Aspi saranno pesantissimi, spiega il sindaco Carlo Bagnasco. Intanto è addirittura d'arrivo il nuovo ponte di Genova. Ci collegheremo poi nel corso di questa puntata appunto con Genova. E c'è una notizia che riguarda Alex Zanardi, che è stato sottoposto a un secondo intervento di neurochirurgia all'ospedale senese Le Scotte, dove il pilota bolognese è ricoverato, come sapete, dal 19 giugno in seguito all'incidente con Landbike a Pienza. Le sue condizioni restano gravi. Per i motori, il pilota della Ducati Andrea Dovizioso ha operato la clavicola dopo la caduta di ieri mattina, mentre in Formula 1 la Mercedes scende in pista contro il razzismo. Sarete forse d'accordo se diciamo che una delle immagini più forti, iconiche e per certi aspetti sorprendenti di questo strano periodo sia quella di Lewis Hamilton, maglietta nera e pugno alzato, che partecipa ad un corteo. Lui, uno dei personaggi globalmente più noti e rincorsi, in pista senza successo, per la verità. D'altra parte, i protagonisti dello sport si sono spesi per la causa nata dal caso Floyd come mai era successo in primissima persona. Ora lo fa anche, con un alto valore simbolico, il team più vincente nella settimana del ritorno della Formula 1 che apre nel prossimo weekend in Austria. Chi cercherà lì la sagoma argento della Mercedes non la troverà, perché la Mercedes sarà nera. E sulle inquadrature strette si potranno vedere decalcomanie antirazzismo su alo e specchietti. Ci siamo resi conto che solo il 3% dei nostri dipendenti appartengono a minoranze etniche e solo il 12% di essi è donna. Questa mancanza di diversità ci dice che dobbiamo cercare nuovi approcci per attrarre talenti da aree della società che oggi non riusciamo a raggiungere. Così spiega ufficialmente il team. Altra storia. La Formula 1 sta partendo, il motomondiale quasi, e ci sarà anche Dovizioso, che si è rotto la clavicola sinistra in allenamento di motocross ed è stato operato e si presenterà il 19 in Spagna sulla Ducati nel primo weekend della stagione. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. E per il calcio mercato maschile, Juventus e Inter protagoniste, bianconeri che hanno chiuso per una cifra complessiva di 82 milioni lo scambio col Barcellona, acquisendo dai catalani il 23enne centrocampista brasiliano Arthur in cambio di Pjanic. Tra i bianconeri, rinnovo di contratto fino al 2021 anche per Chiellini e Buffon. Neroazzurri, che hanno invece acquistato dal Real Madrid il 21enne esterno difensivo marocchino Hakimi, nell'ultima stagione protagonista col Borussia Dortmund. Il giocatore è atteso domani a Milano per visite mediche e firma. Bene, con questo direi di chiudere questa prima parte della puntata, in modo che tra pochissimo possiamo affrontare insieme agli ospiti alcuni argomenti in particolare. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, sempre lì per voi, oppure WhatsApp al 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Una delle notizie che non riesco a vedere i vostri WhatsApp in questi giorni, ci sono un po' di problemi tecnici, ma comunque insomma c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti. E adesso partiremo, Roberto Giordano sempre con voi naturalmente, dopo avervi sintetizzato le notizie nella prima parte, cominciamo adesso a entrare nel cuore di alcune di queste. Direi di partire Dalle novità relative alle misure di sostegno che il governo sta attuando a favore delle famiglie con figli e che rientrano nei provvedimenti, come sapete, per contrastare le conseguenze economiche ma anche pratiche dovute alla gravissima crisi da coronavirus. La novità di oggi riguarda il bonus babysitter, che sarà esteso anche a nonni e zii. In pratica questo bonus babysitter, che ha un valore massimo di 1.200 euro, potrà essere utilizzato per pagare i nonni e altri parenti, per esempio appunto gli zii, che accudiscono i nipoti mentre i genitori vanno a lavorare. Sapete che questo è stato un problema naturalmente molto sentito durante il lockdown, chiusura totale, e poi anche con la chiusura naturalmente delle scuole, di ogni ordine e grado. C'è però una condizione ineludibile per avere questo bonus babysitter, cioè i nonni non devono risiedere nella stessa abitazione dei bambini. La novità è stata introdotta dal decreto rilancio, chiarita poi dall'INPS con una circolare, la circolare numero 73, ed è valida appunto per l'emergenza coronavirus, valida per i figli sino a 12 anni, e poi se disabili in realtà non c'è nessun limite di età. Bisogna poi fare la registrazione sul portale web dell'INPS. Però la ministra della famiglia e delle pari opportunità, Elena Bonetti, oggi ha dichiarato all'ANSA un po' la sua perplessità, dicendo: preso atto della circolare con cui l'INPS ha esteso il bonus babysitter anche ai familiari per la cura dei bambini, resta il fatto che anche in questa fase i nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela. E allora la saluto con piacere, la ministra Bonetti, buonasera. Buonasera, buonasera. E grazie della disponibilità. Lei sin dall'inizio ha molto insistito sul fatto di proteggere i più anziani, perché si è detto durante tutto il periodo più pesante dell'epidemia che i bambini per fortuna sembravano non ammalarsi, se non in casi rarissimi gravemente, ma quasi di non neanche dimostrare, esprimere diciamo sintomi, però il rischio era quello poi di portare il coronavirus ai nonni e quindi insomma con quello le conseguenze che sappiamo. Quindi questa misura, che pure insomma una misura importante, la trova un po' così poco convinta, ministra? Beh, innanzitutto dobbiamo riconoscere una cosa, che è quella da cui noi siamo partiti quando abbiamo costruito queste misure a sostegno delle famiglie, cioè che l'aiuto, uno degli aiuti più grandi che hanno le nostre famiglie in Italia, è proprio quello dei nonni. E da subito abbiamo riconosciuto che il welfare nel nostro paese si fonda in gran parte su questo straordinario servizio che i nonni fanno nei confronti dei loro nipoti e dei loro figli. Già. Tuttavia c'era il tema, e c'è il tema sanitario. Questo virus purtroppo è un virus che ha tragicamente colpito la popolazione più anziana. Abbiamo perso una generazione con purtroppo tante persone straordinarie, colonne delle nostre comunità. Ed è chiaro che da subito questa attenzione verso i più anziani ci ha convinto che era necessario aiutare le famiglie, dare degli strumenti alle famiglie per poter provvedere alla custodia dei figli, soprattutto a seguito della chiusura delle scuole, in modo alternativo a quelle forme diciamo che a cui tutti eravamo, parlo anche in prima persona, abituati, cioè dell'aiuto dei nonni. E quindi il bonus babysitter è nato proprio per aiutare le famiglie a non caricare solamente il rapporto, diciamo, i nonni nella custodia dei figli. La misura è stata una misura approvata prima nel decreto Cura Italia, adesso estesa nel decreto rilancio con il raddoppio della cifra, 1.200 euro o 2.000 euro a seconda che si tratti, 1.200 euro per tutti, 2.000 euro per il personale sanitario e le forze del sì. Sì, nella norma c'è scritto che questa cifra viene erogata tramite il libretto famiglia dell'INPS, che è un libretto già, che era già attivo, quindi uno strumento già attivo e già fruibile. È chiaro che la possibilità di che questo venga utilizzato per anche la sfera, diciamo, dei parenti, però per me non deve togliere il principio iniziale, quindi credo che si debba fortemente disincentivare. Mi dispiace l'utilizzo di questo bonus per pagare i nonni, proprio perché credo che sarebbe un incentivo invece a sottoporre una popolazione anziana, che certamente adesso può ricominciare a vedere i propri nipoti, però con una cautela dovuta alla situazione ancora transitoria nella quale ci troviamo. Chiaro. Quindi con le indicazioni che il Ministero della Salute sta dando. Lei, Ministra Bonetti, è di Italia Viva. Che cosa hanno risposto a queste sue obiezioni dal resto del governo, dei suoi alleati, PD, Movimento 5 Stelle, Liberi Uguali? Ma guardi, in realtà c'è piena collaborazione, in particolare io queste misure le ho sempre costruite con una piena collaborazione con la ministra Catalfo, che poi è il ministero competente, che è il ministro del lavoro e delle politiche sociali. C'è sempre stata estrema sintonia anche rispetto a questi temi, per cui stiamo cercando insieme di poter trovare una possibile soluzione. Addirittura, guardi, sul tema della popolazione anziana, con il ministro Spadafora, che è del Movimento 5 Stelle, abbiamo attivato un protocollo tra il mio ministero e il suo, investendo 5 milioni di euro per sostenere volontariato di under 35, di giovani, che possono aiutare i più anziani in quegli aiuti domestici che oggi, dei quali oggi possono avere bisogno, proprio per questo tema di evitare che questi si espongano a situazioni di contagio, andare a fare la spesa, andare dal medico, situazioni di questo tipo. Quindi anche un investimento, diciamo, di uno scambio generazionale, i giovani che aiutano gli anziani. Ministra Bonetti, c'è stato nel corso appunto dell'emergenza coronavirus, che ancora non è conclusa, ma insomma i dati cominciano a essere piuttosto confortanti per quanto riguarda l'Italia, ma c'è stato da parte dell'opposizione anche un po' nel dibattito pubblico un po' l'accusa ricorrente che i più piccoli sono stati forse i più trascurati in questo lungo periodo. Come risponde? Beh, in realtà rispondo come ho risposto dall'inizio del lockdown, ponendo il tema fortemente nel dibattito pubblico della necessità dell'attenzione della politica ai diritti dei bambini, il diritto al gioco, il diritto al movimento. Ho insistito e ho fatto richieste, ho lavorato delle linee guida che potessero essere approvate. Il 23 aprile ho detto: i centri estivi non ce li scordiamo, li organizziamo in sicurezza, e ci siamo riusciti. Siamo riusciti a organizzare attività ludico-ricreative che siano approvate anche da un punto di vista sanitario. Abbiamo fatto un investimento straordinario di 187 milioni di euro proprio per garantire che in questi mesi i più piccoli abbiano occasioni di educazione, di gioco, di attività ricreative, che sono anche a sostegno delle famiglie, sono da dove siamo partiti, che aiutino la famiglia anche nella custodia dei figli, anche se ovviamente queste attività hanno un valore in se stesse, perché sono una risposta davvero al diritto fondamentale che hanno i nostri bambini e i nostri ragazzi ad una socialità, delle relazioni tra pari, al diritto al gioco, al movimento, a trovarsi in un contesto aperto, ovviamente organizzato nella sicurezza che è necessaria data la situazione in cui ancora in qualche modo ci troviamo, anche se fortunatamente con condizioni nettamente migliorate. Senta, uno tra i tanti ascoltatori che stanno scrivendo, Maurizio, dice: ma non è che tutti i nonni sono ultra ottantenni? Se sono in grado di fare da babysitter significa che hanno un'età e uno stato di salute compatibile col ruolo che vogliono svolgere. Oltretutto, dice, se sono dello stesso gruppo familiare già si frequentano e quindi si rischia meno di un esterno alla famiglia. Sul fatto che non sono tutti ultra ottantenni che quindi si sentono, in realtà ci sono anche ultra ottantenni nonni che insomma cercano di sopperire al problema poi di gestire i bambini, perché i genitori devono andare a lavorare, quindi questo non significa che per forza siano in super forma, però dice non sono tutti così anziani e poi sono più sicuri di chi viene dall'esterno. Se vuol dare una risposta breve, Ministra Bonetti. Ma guardi, io credo che sia vero, ma io penso che i nonni che siano sessantenni, ottantenni o novantenni siano una risorsa preziosissima nell'educazione e nella crescita dei nipoti. Io ne ho fatto esperienza, io personalmente, ne stanno facendo esperienza i miei figli. Io credo che sia un rapporto tra generazioni che sia da favorire e incentivare. Tuttavia va fatto in questo momento con un'accortezza però purtroppo maggiore, perché sappiamo, lo dicono i dati, lo dicono le valutazioni scientifiche, che questo tipo di malattia purtroppo è una malattia subdola che nella popolazione anziana ha effetti devastanti, e siccome noi vogliamo bene a queste persone, vogliamo bene ai nostri nonni, vogliamo far sì che abbiano relazioni con i loro nipoti, ma che queste relazioni siano tutelate da questioni, diciamo, dall'evitare il contagio tra possibile, insomma. Ministra Bonetti, adesso qualcuno che diciamo poco fiducioso nei comportamenti degli italiani, che dice adesso chissà quante truffe cominceranno a far finta di fare i babysitter e poi si prendono i soldi i parenti. Ci sarà qualche paletto, immagino, no? Bisognerà registrarsi sul sito dell'INPS. È tutto trasparente, esatto, che in realtà è tutto trasparente, nel senso che si tratta di un contratto di lavoro, insomma, fatto nel termine del libretto famiglia, ma è tutto ovviamente registrato e trasparente e quindi in qualche modo nulla di nascosto. Tuttavia, diciamo, al di là della mia osservazione del fatto che credo che si debba evitare l'utilizzo di questo bonus, in particolare nei confronti delle persone più anziane, faccio anche un passaggio diverso, un momento in cui noi dobbiamo avere due parole chiave che ci guidano in questa ripartenza: responsabilità e fiducia. Responsabilità da parte di tutti, perché tutti dobbiamo essere consapevoli che stiamo usando risorse, tra l'altro, che sono risorse dei nostri figli, e dobbiamo evitare di fare un'ipoteca sul loro futuro, dobbiamo fare un investimento, quindi dobbiamo essere molto responsabili nell'utilizzare queste risorse, tutti. Siamo stati responsabili nel rispetto della regola, adesso si tratta di essere responsabili nell'utilizzo delle risorse. D'altra parte serve fiducia, perché solo la fiducia nei confronti dei cittadini e della loro responsabilità, cittadini che hanno dimostrato di saper rispettare le regole e di farlo per il bene comune nel periodo del lockdown. Io mi fido degli italiani, quindi credo che se le parole che ci guidano saranno responsabilità e fiducia, non ci saranno problemi. Senta, chiedo invece un altro ascoltatore, vorrei chiedere alla Ministra se sarà previsto qualcosa per le famiglie con disabili, sì, perché in realtà questo bonus andrebbe fino ai bambini di 12 anni, però per quanto riguarda bambini con disabilità o ragazzi non c'è limite di età, no? Leggevo. Non c'è limite di età, esattamente, sono state anche estese le giornate per la 104, poi diciamoci anche che queste misure sono quelle misure che abbiamo messo adesso in campo, ma per rispondere ad un'emergenza che è quella di oggi. Poi sapete, abbiamo approvato il Family Act, che invece diventa una proposta strutturale, stabile, che diciamo, se avessimo approvato prima, oggi non avremmo dovuto mettere in campo tutte queste misure straordinarie. Quindi sostegno alle famiglie economici con particolare attenzione anche alle situazioni di disabilità. Ministra Bonetti, lei è anche ministra oltre che della famiglia e delle pari opportunità e l'ho vista più volte fare dichiarazioni durante il lockdown sul rischio, no, dell'aumento della violenza di genere, e infatti ci sono stati più reati di violenza nei confronti delle donne durante il lockdown, perché tante donne poi costrette, no, già tutti eravamo costretti a stare chiusi, immaginiamo le donne che subiscono maltrattamenti e violenze. Vedevo questo rapporto che dice che ci sono stati ancora molti report realizzati dall'organismo permanente di monitoraggio durante l'emergenza coronavirus, che parla ancora di molti femminicidi, sangue tra le mura domestiche, dopo tra l'altro la vicenda di questi giorni tra le più sconvolgenti del 45enne che per vendetta sulla sua ex ha ucciso i suoi due figli, no, gemelli nelle chiese, ma in queste ore ne potrei elencare veramente tanti, da Reggio Emilia a Grosseto a, se non sbaglio ancora, a Fregene, insomma ce ne sono veramente tanti. E poi anche sono aumentate le telefonate al numero antiviolenza 1522, anche forse per sostenere proprio del suo Dipartimento per le Pari Opportunità, per sostenere e aiutare le vittime di violenza, che in qualche modo però lascia presumere questo senso di un po' di solitudine, di smarrimento connesso alla difficoltà per le donne di rivolgersi alle forze di polizia, Ministra. Allora, innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto, che il periodo di lockdown per queste donne e per i loro figli è stato un periodo di tragedia aggravata. Da subito abbiamo voluto sostenere una campagna di promozione del numero 1522 e dopo un iniziale calo delle chiamate allo stesso numero, grazie di fatto alla campagna per la quale si sono anche spese artisti straordinari che ci hanno davvero prestato il loro volto e la loro voce attraverso l'accordo fatto con le farmacie per la diffusione del numero, la promozione dell'app, l'accordo col Ministero dell'Interno che ha promosso un'altra app sempre per la segnalazione di violenza domestica, abbiamo avuto un risultato ahimè positivo, nel senso che sono aumentati in modo notevole, con percentuali altissime, diciamo, sono arrivati in un'età più di 2000 contatti, insomma nel periodo proprio peggiore, diciamo. Ecco, questa cosa significa che le donne hanno avuto il coraggio di chiedere aiuto. Ahimè hanno dipinto una situazione tragica nelle case del nostro paese, ma è una situazione che c'è e che il primo modo per poterla risolvere è quello che le donne sappiano di poter contare sull'aiuto di una comunità, abbiano fiducia che fuori dalla quella porta che devono avere il coraggio di aprire nell'atto della richiesta di aiuto, della denuncia, c'è qualcuno pronto ad accoglierle. Dopo la denuncia c'è un tema di accompagnamento, e questo devo ringraziare la rete di centri antiviolenza, delle case rifugio, che hanno fatto un ulteriore lavoro in questi mesi. Noi come Dipartimento abbiamo investito 5 milioni e mezzo per sostenere anche il riferimento dei nuovi alloggi, grazie anche all'aiuto delle prefetture. Quindi è evidente che questo fenomeno ha avuto un aggravio. Adesso però che siamo tornati nella normalità non ce ne dobbiamo dimenticare. Certo. Io devo dire che le notizie di questi giorni sono notizie drammatiche, che non devono essere usate per sensibilità semplicemente mediatica. Noi dobbiamo ricordarci che dietro a quei luoghi, a quei nomi che lei ha citato e ricordato, ci sono storie di vita lacerate. Certo, e poi qui effetto note alla garanzia, ne ho parlato sempre, ogni volta costantemente. Infatti, c'è un'attenzione particolare. Questo tema è proprio perché riconosco questa sensibilità che dico questo, perché so che appunto c'è la consapevolezza che c'è una storia, e se fosse anche solo una la vittima, certo, non fossero anche aumentate, ma fosse solo una la vittima, per quella vittima noi oggi dobbiamo tutto il nostro impegno. Ministra, io la ringrazio anche da un punto di vista mediatico, mi permetto di dire, perché l'omicidio purtroppo efferato che è avvenuto nei confronti dei due bambini, mi lasci dire, non può essere raccontato come l'esito della disperazione della separazione di un uomo. È un atto di violenza disumana, certo, e per questo va condannato senza se e senza ma. D'accordissimo. Ministra, a proposito ancora di violenze, ieri è data da anni simbolica, no, per lo svolgimento dei Gay Pride in Italia e nel mondo. Quest'anno naturalmente per le questioni del Covid-19, la necessità di distanziamento eccetera, è stato per lo più virtuale, ma con grande partecipazione un po' in tutto il mondo, tranne per esempio a Milano c'era anche poi nel concreto questo cuore enorme in Piazza Duomo, fatto da centinaia e centinaia di piccoli cuori. Ecco. Un ragazzo nel fine settimana è stato vittima a Pescara di un'aggressione omofoba, in 7 lo hanno aggredito alla mascella rotta, adesso in ospedale. Il sindaco, vedevo poco fa, di Pescara, Masci, che è di centrodestra, ha detto: mi addolora come sindaco che il Consiglio Comunale non abbia trovato l'unanimità su un ordine del giorno di sintesi che potesse esprimere documentalmente lo sdegno e la condanna dell'intera città di Pescara attraverso tutte le sue componenti per questa vigliacca aggressione a un ragazzo omosessuale. Dice: non sono queste le occasioni per dimostrarsi abbarbicati a una visione politica che intende forzare la realtà per dare la propria connotazione a un episodio che va condannato senza se e senza ma. Mi dice, abbiamo pochissimo tempo, ancora una parola su questo, proprio sinteticamente, Ministra Bonetti. La dignità della persona umana richiede coesione, e su questo il Paese deve esserci tutto intero. È inaccettabile che oggi ci siano atti di violenza anche di questo tipo, di questa gravità, ed è inaccettabile che li si possa in qualche modo giustificare. Nessuna causa di discriminazione può essere accettata nel nostro Paese. Ecco perché oggi dobbiamo condannare anche le forme di violenza e di discriminazione per identità di genere, e quindi io credo che una legge che possa sostenere e condannare anche da un punto di vista penale l'omotransfobia, credo che oggi sia una legge necessaria per il nostro Paese. Se ne parla non da tanto e ancora non si riesce a far passare. Non una legge ideologica, ma una legge che spero nei prossimi giorni possa trovare una riconciliazione del Paese, perché, come ripeto, il rispetto e la dignità della persona umana viene prima di qualsiasi altra posizione. E per chiudere, almeno una buona notizia, Ministra Bonetti, ha visto questo baby boom a Cremona, in 24 ore sono nati 15 bambini. 15 bambini. Un record mai visto, dicono, è un simbolo di rinascita, e insomma l'hanno così definito, mai raggiunto almeno a Cremona questo record. È il segno della speranza della ripartenza. Sono contenta che in un territorio così lacerato, affaticato, già Mantovana, conosco le fatiche di quel territorio così addolorato, abbiano avuto questo segno. Credo che sia un po' l'indirizzo della storia che sta dicendo anche a quel territorio che si può ripartire dalle nuove generazioni. Bene, speriamo di guardare con fiducia al prossimo futuro. Ministra Bonetti, io la ringrazio e spero di riaverla presto qui. Grazie a Fetto Notte. Allora, grazie, buon lavoro. Buonasera, grazie. Grazie. Ci fermiamo allora per questa breve, come al solito, pausa di riflessione per i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i WhatsApp al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, non potevate essere in posto migliore per iniziare la settimana. Sempre Roberta Giordano con voi, che vi accompagna come sempre da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 per darvi a fine giornata il quadro più chiaro possibile, esauriente, dei fatti più importanti dall'Italia e dall'estero, da poi approfondire per alcuni temi di questi con gli ospiti. Abbiamo appena parlato con la ministra per la famiglia e le pari opportunità Elena Bonetti a proposito delle sue perplessità sul bonus babysitter esteso anche ai nonni, e poi di molti altri argomenti come l'aumento della violenza di genere durante il lockdown e poi anche dell'aggressione omofobica a Pescara. Adesso, a proposito di questa perplessità, appunto il ministro Bonetti ha spiegato un po' le sue ragioni. Poi c'è, vi dicevo all'inizio, il presidente del Veneto Zaia che chiede il test per le badanti di rientro da paesi extraeuropei, perché dice questa è una maniera per proteggere gli anziani e i loro familiari, spiegando che i tamponi verranno fatti in tempo reale. E poi in Lombardia il presidente Fontana, si attendeva oggi la decisione sulla questione delle mascherine, l'obbligo delle mascherine all'aperto, l'ha prorogata fino al prossimo 15 luglio, anche se a dir la verità con 33-34 gradi oggi a Milano diventa veramente pesante fuori all'aperto, finché sia nei mezzi pubblici, in un negozio, nei supermercati, fuori, insomma. Però adesso voglio sapere il parere su tutte queste cose del professor Pierluigi Lopalco, che è professore ordinario di igiene all'Università di Pisa e responsabile della struttura speciale coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell'Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della regione Puglia. Professor Lopalco, bentornato. Buonasera a voi. Buonasera. Senta, allora comincerei appunto, visto che abbiamo appena lasciato la ministra Bonetti, che ne pensa del fatto che la ministra Bonetti era perplessa di questa estensione del bonus babysitter ai nonni, perché dice far incontrare i nonni e i piccoli, abbiamo già cercato di salvaguardarli durante il lockdown, cerchiamo di mantenere sempre un po' di misura, un po' di cautela, perché il rischio potrebbe essere grande, abbiamo perso, dice, quasi un'intera generazione. Che dice il professor Lopalco? La situazione epidemiologica attuale è completamente diversa e non è paragonabile con quella che c'era durante il lockdown, in cui eravamo in piena fase epidemica, è stata la prima ondata. E c'è anche da dire che attualmente abbiamo qualche evidenza in più sul fatto che probabilmente i bambini al di sotto dei 10 anni, soprattutto se sono asintomatici, non rappresentano una grande fonte di contagio. Quindi, mettendo insieme questi due aspetti, cioè una bassa circolazione del virus più il fatto che comunque stiamo parlando di bambini piccoli, bambini che appunto richiedono, no, dell'assistenza fino ai 12 anni, l'assistenza di una babysitter, che non possono stare da soli a casa, alla fine io credo che il rischio residuo sia davvero basso. E poi io non penso che in questo momento nonni e nipotini non si stiano incontrando oggettivamente. E invece, per quanto riguarda il presidente del Veneto Zaia, che chiede il test obbligatorio e gratuito per le badanti di rientro da paesi extraeuropei, dice per salvaguardare sempre appunto le famiglie, in particolare gli anziani, che ne pensa, professor Lopalco? Ma diciamo, questo può essere una misura utile se qualunque, diciamo, lavoratore rientra in Italia da un paese in cui è accertata una circolazione virale che è superiore a quella che è attualmente in Italia. Quindi potrebbe essere una misura precauzionale. Diciamo, qualche caso importato dall'estero si sta già cominciando ad osservare, per cui non sarebbe una cattiva idea. Se è di facile realizzazione, poi alla fine appunto l'impegno sia di economico che organizzativo non mi sembra un impegno eccessivo. Professor Lopalco, invece, per quanto riguarda la Lombardia, questo obbligo fino al 14 luglio, poi dal 15 si decide, cioè veramente ormai andiamo verso il caldo tropicale, che facciamo? Le sembra utile in Lombardia? Certo, Lombardia è stata la regione più colpita, ma all'aperto, e quindi è ancora così necessario portare le mascherine? Ecco, il principio da valutare è la diffusione del virus all'aperto, che oggettivamente noi conosciamo essere più bassa, non solo, ma diciamo, in una situazione all'aperto non credo che si possano creare delle situazioni tali di assembramento, per cui non so, due passanti stiano per interi minuti appiccicati uno all'altro e possano trasmettere il virus. Per cui oggettivamente, ripeto, durante il picco epidemico era un altro discorso, ma in questa fase dell'epidemia, in cui oggettivamente il virus sta circolando a bassa intensità, E capisco, diciamo, la preoccupazione in Lombardia, però forse quello dell'obbligo della mascherina in situazione appunto di non assembramento all'aperto forse è un po' eccessivo. Sì, trovo veramente eccessivo, non si respira veramente più. Tra l'altro vedo che in Lombardia invece verranno riaperte le discoteche il 10 luglio, quindi 4-5 giorni prima di finire con l'obbligo della mascherina all'aperto, verranno riaperte le discoteche 5 giorni prima, le sale da ballo e anche il calcetto prima appunto di finire con questo obbligo della mascherina all'aperto. Senta, il fatto che l'OMS, è vero che adesso comincia a esserci una certa diffidenza diffusa, almeno così dall'opinione pubblica, quando parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per una serie di cose a volte un po', diciamo, in contraddizione, in coerenza in questo periodo, ma il fatto che dica il peggio deve ancora venire, come lo dobbiamo interpretare oggi, è stato detto, professor Lopardo? Bisogna interpretarlo a livello globale. L'OMS non parla per l'Italia, cioè l'Italia è l'ultimo. Quindi Brasile, Stati Uniti. Dell'OMS. Meno male. L'OMS deve tutelare soprattutto i paesi che hanno dei sistemi sanitari più deboli, sono quei paesi che possono soffrire di più di un'ondata pandemica, quindi è molto preoccupante il fatto che in Sud America si stia diffondendo con questa velocità e purtroppo anche in alcuni paesi dell'Asia e soprattutto quello che preoccupa poi anche l'Africa, cioè certo. Una infezione del genere se entra in una metropoli africana possiamo immaginare che cosa può succedere. Professore, certo. Per chiudere, oggi è arrivata la notizia dalla Cina del primo vaccino che viene somministrato ai militari per il momento, che ne pensa? Non abbiamo ancora visto i risultati. In pratica in Cina hanno, con questo vaccino hanno completato la fase 2, quella che per esempio in Europa si sta facendo col famoso vaccino di Oxford. Loro l'hanno già completata, dicono che i risultati sono buoni e quindi sono passati ad una fase ulteriore che va proprio anche al di là di una vera e propria sperimentazione, perché significa di un utilizzo a tappeto su tutti i militari. Ma questo è una buona notizia per noi, perché il vaccino in questione è un vaccino che come costituzione, diciamo come piattaforma, è molto simile al vaccino europeo, al famoso vaccino, diciamo, italo-inglese. Sì, Pomezia Oxford, sì. Esatto, quello di Oxford, perché è un vettore molto simile a quello nostro. C'è da dire, insomma, che hanno bruciato i tempi, probabilmente sono partiti con un po' di vantaggio. Quindi la vede positivamente, speriamo, insomma. Potrebbe essere una gran bella notizia. Bene, bene, allora ci aggiorniamo magari, professor Lopalco. Grazie intanto. Grazie, buona continuazione, buon lavoro a lei, grazie. E c'è la viabilità, tra pochissimo. Se la sportività che cerchi in un'auto non è solo parcheggiare sul marciapiede, se la tranquillità del divano è l'ultima cosa a cui pensi quando sali a bordo, se cerchi sempre qualcosa che non si confonda con gli altri, per te è arrivata nuova Seat Leon, sportiva, connessa, ibrida. Oggi con un nuovo design e l'esclusivo Seat Light Concept. Fari full LED, illuminazione interna a LED intelligente e personalizzabile e LED posteriore cost to cost. Nuova Seat Leon, disegnata dalla luce. Tua da 19.500 euro. Scoprila su seatitalia.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bene, abbiamo parlato lungamente di coronavirus e non solo, professor Lopalco dell'Università di Pisa, ma anche con la ministra Bonetti a proposito delle sue perplessità sul bonus babysitter esteso ai più anziani, poi anche di altri temi importanti come la violenza di genere e altri temi. Adesso invece ci concentriamo sulla politica con la nostra cara Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Bentornata, cara Barbara. Buonasera a tutti. Alla quale chiedo un commento sintetico e direi lapidario su questo nuovo motivo di scontro all'interno della maggioranza tra i due maggiori partiti, che sono il PD e il Movimento 5 Stelle, di nuovo sul MES, proprio diciamo nella settimana decisiva per il decreto semplificazioni e mentre si sta preparando questo schema della nuova manovrina, dello scostamento di bilancio. MES, il segretario del PD Zingaretti ha detto basta tergiversare, qui bisogna prendere i soldi del MES, mentre il Movimento 5 Stelle insiste, noi continuiamo a essere contrari, meglio il debito con lo scostamento di bilancio. Barbara, ci sarà... Intanto che questi soldi non è che ce li regalano, comunque è un debito, quindi in qualche modo poi lo scostamento andrà fatto in ogni caso, quindi non è che non si fa lo scostamento perché non si prende il MES o viceversa. L'altra cosa da dire è che mi sembra che ormai, come era un po' successo ai tempi del governo giallo-verde sul sulla TAV, se ci ricordiamo, no? Cioè, i 5 Stelle hanno una posizione pregiudiziale, il PD dall'altra parte tiene il punto e ritiene che vada usato questo MES, quindi mi sembra che il compromesso al momento non si vede. Tieni conto, Roberta, che sappiamo che il 17 luglio ci sarà una nuova riunione del Consiglio europeo sul Recovery Fund. Lì chiaramente la posizione che porterà l'Italia sarà importante, perché puntiamo a mantenere quello che è stato l'accordo fatto anzitutto dai francesi e dai tedeschi e che consentirebbe di avere molti soldi sia a fondo perduto che come che però prestiti. Mi pare arriveranno un po' più in là di quello che arriverebbe, dei soldi che arriverebbero dal MES, sì, cioè punto, dal meccanismo europeo di stabilità. Fino adesso, se dobbiamo dar retta a quello che ha detto il nostro Presidente del Consiglio, lui ha detto, ed è per questo che sostiene non essersi presentato, cioè si è presentato in Parlamento per delle comunicazioni, probabilmente farà lo stesso anche prima del prossimo Consiglio europeo, appunto del 17 luglio, ma non ha fatto un'informativa sulla quale si vota. Che cosa significa, tanto per essere chiari? Cioè, se il Presidente del Consiglio va lì e fa un'informativa per dire e chiede al Parlamento, come dire, un'opinione, a quel punto il Parlamento fa una mozione, solitamente la maggioranza fa una mozione e dà un indirizzo al Premier per quando va a trattare poi con i partner europei. Se invece, cosa dice Conte? Ma il 17 guardate che non si decide niente, per cui è inutile che votiamo su che tanto non si decide niente. Io voglio votare, questo dice il Presidente del Consiglio, lo sto molto sintetizzando e anche banalizzando, voglio votare quando c'è un pacchetto completo. Cosa vorrebbe Conte? Vorrebbe dire sì al MES quando c'è il sì al Recovery Fund, cioè quando anche i paesi tipo l'Olanda e tutti questi paesi saranno d'accordo e non si metteranno di traverso, per evitare di fare la fine del carciofo che viene spogliato, no? Aggiungo solo una cosa, Barbara, che dovrebbe essere in corso una riunione tra i membri del governo del Movimento 5 Stelle per fare un po' il punto sul MES, poi capiremo insomma che cosa succede nelle prossime ore. Il problema abbiamo capito tutti in questi giorni, insomma, che i 5 Stelle continuano a essere una polveriera, ognuno va un po' per conto proprio. Questa riunione che stanno cercando di fare, che stanno facendo questa sera, è proprio per cercare di trovare una linea comune. Io immagino, già prevedo, che ribadiranno il no al MES, perché è l'unica cosa che li tiene insieme in questo momento. Prevedo il collante secondo Barbara Fiammeri e il MES. Grazie cara Barbara, ben presto. Ciao Barbara Fiammeri, ciao Barbara. Adesso ci spostiamo invece a Genova, dove c'è il nostro Andrea Ferro, perché oggi finalmente il sindaco Bucci ha detto che il ponte di Genova sarà finito il 29 luglio, però ancora non si capisce chi deve fare il collaudo. Andrea? Sì, buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. So che devo essere veloce, quindi corro. Sì, allora, perdonami. Sì, c'è questo problema, diciamo non da poco, perché sul ponte di Genova aleggia la questione, il nodo concessione autostradale, nodo che il governo non riesce ancora a sciogliere, però visto che i tempi per il ponte ormai siamo arrivati al rush finale, prima o poi si dovrà sapere a chi dare appunto in gestione questo ponte, ed è un po' il dubbio del espresso oggi appunto dal sindaco e dal commissario Bucci che però appunto, il nodo è sempre quello, è poi di Aspi, no? Autostrade esatto, per l'Italia, chiaramente, verso le quali il sindaco di Rapallo chiede i danni adesso per tutti i lavori di questi giorni, i blocchi e quindi anche il turismo. Ma infatti la cronaca ci impone congedare in fretta la questione del ponte per parlare brevemente di quello che sta accadendo da giorni, da settimane sulla rete autostradale Ligure. Siamo nelle code praticamente tutto il giorno e poi di notte alcuni tratti addirittura chiudono per questi lavori nelle gallerie, lavori che dovrebbero terminare entro il 15 luglio, ma nel frattempo il territorio è allo stremo e il sindaco di Rapallo, è notizia di oggi, ha incaricato un legale di citare in giudizio Autostrade e chiedere i danni appunto per le conseguenze patite dal territorio in seguito a questa viabilità. Potrebbe essere il primo di tanti, magari. Assolutamente impossibile. Prego? Potrebbe essere il primo di altri, probabilmente. No, ma addirittura non è anche il primo, perché già il sindaco di Arenzano e un altro della Riviera di Ponente avevano annunciato iniziative analoghe. Comunque chiaramente questo dimostra quanto il territorio, dicevo, sia ormai allo stremo di fronte veramente a conseguenze pesantissime sull'economia di territori che provano a ripartire dopo il lockdown. Chiaramente questo, essendo un'area ad alta vocazione turistica, in questo momento questi disagi costano e costano molto. Direi di aver concluso in questa maniera un telegramma da Genova. Sei stato bravissimo, grazie Andrea Ferro. Ciao Andrea. da Genova. Ciao. Ciao, salutaci Genova, un abbraccio. Hai certo. Ci riaggiorniamo alle 22.